qua nuovamente in diretta a 7:50 minuti o quasi di questo primo luglio 2024. Prima colazione in diretta, ricordando il 3331809494, perché per voi metterò in palio un saggio di una filosofa nata nei primi del Novecento, scompare giovanissima, eh? Lei è stata un'attivista partigiana, vi darò altre notizie. Il saggio in questione me ne privo malvolentieri, ma dai, è luglio, è estate, è giusto che per tutte e per tutti ci siano letture molto molto curiose e stimolanti, per cui è in palio questo lavoro, edizione Adelphi, che troveremo nei magazine all'interno della Domenica del Sole 24 Ore. Ne parleremo e poi darò altri indizi per portarvi sempre più idea di questa donna molto importante per il pensiero e l'azione, e anche per la spiritualità in questo caso. Intanto ho citato il nostro numero per giocare e per vincere il saggio in palio nei magazine, ma ricordo anche il 3331809494 per co-conduzione in diretta. Grazie Matteo, mi scuso, impegnato, è arrivato il suo messaggio durante la lettura delle prime pagine, mi scuso perché è evidentemente distratto nel mettere a posto tutte le testate, nel raccogliere i brani in playlist, insomma. E anche con Lino a quanto pare ho saltato la il messaggio. Ecco, intanto iniziamo da Lino. Buongiorno, è lunghissimo questo messaggio. Buongiorno a Lino e buongiorno a Wolf. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Commenti al weekend sportivo dell'Italia femminile di volley. Di volley se ne parla solo quando perde, per dare addosso ad una specifica giocatrice, vero? Inoltre non era propriamente il campionato del mondo, però comunque importante, ma le competizioni importanti sono le Olimpiadi, precisa Lino. Per quanto riguarda la pallavolo, Italia calcio, troppo Bologna nella Svizzera e troppo poco nell'Italia. Comunque questo risultato è il frutto di scelte politiche e marketing. Tour de France l'ho schivato, anche se è un evento tra i più importanti del mondo. Per finire con lo sport, con una gloria locale, Ducati conquista l'Olanda dominando entrambe le gare con Bagnaia ingiocabile per tutti gli altri. Per il resto preferisco tacere. Grazie, non hai taciuto, hai fatto bene innanzitutto per dare questa pillola per lo sport durante il weekend appena trascorso. Quindi grazie Lino, una carezza Wolf, ovviamente un buon mese di luglio. Io voglio quei giocatori come Palanca, chi si ricorda Palanca del Catanzaro che faceva gol da calcio d'angolo, voglio quei calciatori lì, non i tatuati con le ciglia rifatte, non voglio quei calciatori lì, sarò banale, ma per me bisognerebbe ritornare a una situazione un po' diversa. Recupero il messaggio anche di Matteo, grazie Matteo, scusa. I giovani vanno sempre meno a votare, purtroppo la destra mediamente è votata da gente piuttosto grande. Quando sento i sessantenni che votano a destra, mi cadono le braccia. Già, capisco. Grazie Matteo per la tua analisi condivisibile. Sono molto grato a voi per questa co-conduzione in ambito sia di sport, inteso in maniera competente, lucida e portata con passione da parte di Lino, l'analisi politica condivisibile di Matteo e di Fabio. Sono molto grato per questa co-conduzione mattutina. Qua qualche indizio, allora abbiamo detto filosofa, nasce i primi del Novecento, muore giovanissima, è nel 1940, sto andando a memoria, per cui così non potete guardare su altre fonti, per essere così impreciso non vi do la possibilità di, anche perché ammetto ne ho solo una copia, però appunto siccome sono molto grato a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori del Breakfast Club, io l'ho già letto e lo metto in palio ben volentieri per voi. Pensate, come ho detto, una donna di pensiero e di azione scompare giovanissima, lascia la sua vita di filosofa per iniziare un percorso e per conoscere le difficoltà delle operaie, va a lavorare in una fabbrica. Questa è la parte, diciamo, della sua vita che più mi ha colpito. Lascia, rimane sempre legata allo studio, al pensiero, però inizia una vita d'azione, oltretutto antifascista convinta, riporta anche una fortissima spiritualità. Infatti il suo lavoro, che sto mettendo in palio, è legato a un discorso di spiritualità ed è per voi. 333-180-9494. Non è facilissimo perché purtroppo se ne parla poco di questa autrice, di questa donna di pensiero e di azione, però è per voi in palio, ne abbiamo di tempo, quasi fino alle 8. Intanto The Battle, lui è Gil Scott Heron, poi andiamo in pubblicità, rientriamo ufficialmente con i magazine, spazio di approfondimento legato alla stagione 2024-2025 Arena del Sole. A tra poco. Sai qual è il problema, Lino? Che avete ragione tutti e due. Scrive Lino, scusate questo rientro, ma è interessante il motivo di riflessione. Non sono d'accordo con Matteo che dice che gli elettori di destra sono grandi, solo di età intendo, eh. Purtroppo vedo giovani adolescenti che si professano fascisti con modi anche aggressivi. Sarà un modo per affrontare le loro fragilità, le loro paure, nascondendosi dietro proclami roboanti ed aggressivi, punto di domanda. Il fatto è che avete ragione tutti e due, il fatto che non do questa conferma con così ne prendo atto tristemente ed è una cosa veramente spaventosa. Io, come mi sono appellato in precedenza, il motivo è in questo caso cultural-politico, e quando di base la cultura resta comunque e l'informazione, come ho denunciato in precedenza, qualcosa che è molto molto carente, qualcosa che è mordi e fuggi in ambito culturale, qualcosa che purtroppo più che primario è addirittura primitivo, e tutto ciò è voluto, è fatto, è strutturato in maniera molto strumentale, chiaramente le conseguenze sono queste. Il problema è che, avendo ragione entrambi, è che la situazione nefasta è divisa in maniera trasversale e questo non è assolutamente bello. Ok, non rientro più, mando la pubblicità, iniziano i magazine, è già arrivata la risposta esatta al quiz, anzi ne sono arrivate due, però avrò modo poi di proclamare il vincitore dopo la pubblicità all'inizio dei magazine. A tra poco! Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? See the new? Il dibattito prende voce ed è giusto così, tornando in diretta sui 103.1. Grazie Alberto che afferma: tutte le statistiche dicono che i giovani italiani, quelli che votano, scelgono il campo progressista in maniera importante, 70-30. Quindi rimane vero quello che dice Matteo: il nostro è un paese di vecchi. Non aggiungo l'aggettivo, comunque è ben immaginabile, ecco. Quello che è vero è che le manifestazioni che abbiamo visto negli Atenei, le manifestazioni per la pace, le manifestazioni per lo stop ai bombardamenti in Medio Oriente, le manifestazioni che abbiamo trovato per l'impegno sui cambiamenti climatici, certo, la voce dei giovani è importante, questo è fondamentalmente vero, però come appunto ha riportato anche Lino, se c'è una grande astensione, una sfiducia da parte dei giovani, l'abbraccio che arriva dal nero è qualcosa che porta sempre un pericolo, e se il consenso è così alto, purtroppo, aggiungo, come dico sempre, la questione è trasversale, ecco, certo la fiducia nei giovani è un fondamentale, quello sì, quello è importantissimo e sono d'accordo con voi. Come ho detto, quando i numeri sono questi non si può altro che pensare in un orientamento tristemente trasversale, purtroppo. Ti fa più effetto in un giovane, quello sì. Tanto allora i complimenti vanno, mi pare, raggiungo in questo momento Jarno da Calderaro. Quindi Jarno, allora facciamo così, ti puoi recare nel tardo pomeriggio da Ubik, perché tu hai già vinto un altro lavoro che devo consegnare a Ubik, e oltretutto, avendo indovinato la filosofa e donna di pensiero e d'azione con una grande spiritualità, lavoro molto bello, beh, hai vinto due libri interessanti, quello presentato da Silvia nell'ultimo Voltiamo Pagina e questo saggio. Una buona lettura, quindi, Jarno. La letteratura, il teatro, la musica, tutte le espressioni artistiche, io ci credo, e come, in maniera proprio vitale, sono fondamentali. Quindi regalare ingressi a teatro, regalare libri, secondo me un aspetto di attenzione importante. Attesa di Dio, lei è Simone Veil, per cui grazie per aver giocato con noi, con il Breakfast Club, e questi due lavori ti aspettano da Ubik in Via Nerio 27 a Bologna. Sì, sì, Dino, intendevo quello, sì. E ringrazio anche Sergio, che non è arrivato al premio, ma ha azzeccato, sa benissimo che Simone Veil corrisponde agli indizi che ho appena portato. Aggiunge: quando sento parlare di Biden, Sergio, scusami, ma qui mi sembra di sentire il fratellone, che sarei poi io, che parla di me, ritardi cognitivi, vuoti mentali, eccetera. Sergio, dai! Venerdì sono stato in piazza San Francesco, grazie a ERT per San Francesco Estate. C'è prenotazione d'ingresso gratuito, quindi grazie veramente alla Fondazione ERT, che in piazza San Francesco sta portando contenuti speciali con Radio Ritmo, oltre che l'orchestra del Baraccano e una selezione musicale molto molto bella e ben proposta. Ha dato struttura in maniera molto particolare, curiosa, per quanto riguarda la guerra dei mondi di Orson Welles, che è stata riproposta, H.G. Wells e Orson Welles rispettivamente, insomma, per la guerra dei mondi, in uno studio radiofonico e su un palcoscenico che riprendeva tale studio, la musica dell'orchestra del Baraccano con musiche d'epoca, da Gershwin per dire, in una struttura molto interessante, perché ovviamente non era con grande orchestra, era questo ensemble di musicisti più raccolto, ma ho apprezzato tantissimo la struttura musicale, perché dava proprio la possibilità di ascoltare, ma soprattutto di sentire lo svolgimento della trasmissione recital, che è stata portata grazie all'orchestra del Baraccano, grazie a chi è stato in scena per questa rivisitazione con la guerra dei mondi, lo spettacolo Radio Ritmo. È bellissima la rassegna nell'estate, appunto, 2024, San Francesco Estate. A proposito di ERT, alcuni palcoscenici già hanno dato presentazione. Venerdì ha dato presentazione della stagione 2024-2025 Teatro Arena del Sole. Ovviamente a Bologna, è una nuova stagione Emilia Romagna Teatro ERT, Teatro Nazionale, pensata per le due sale del Teatro Arena del Sole, per il Teatro delle Moline. È un progetto di produzione e ospitalità che coinvolge artisti del panorama italiano e internazionale di maestri e di realtà emergenti, del teatro di tradizione alla sperimentazione interdisciplinare. Si lavora sulla contaminazione dei formati, culture, generazioni, insomma 47 spettacoli, di cui 9 produzioni, 15 coproduzioni, 23 ospitalità, 8 debutti, di cui prime nazionali e 6 prime assoluti. L'apertura Opening Showcase Italia, di cui parleremo, insomma, e avremo modo di seguire poi nel percorso della stagione. Vi dirò anche alcuni nomi. La presentazione, radiofonicamente parlando, ho voluto strutturarla in due momenti diversi, partendo con il direttore artistico Walter Malosti in un prima parte di Magazine. Dopo la pubblicità delle 8:30 sentiremo anche la voce di Michela Lucenti per quanto riguarda la rassegna all'interno del programma di danza riportata come Carne, che già conosciamo ed è una rassegna seguita anche dal Breakfast Club nella rubrica In Scena. In questa presentazione la troviamo nei Magazine. E intanto io, a proposito di voci dei protagonisti, direi di iniziare da Walter Malosti, direttore artistico. Ho voluto riportare con Malosti alcune sensazioni riguardanti la stagione, perché non mi sembrava il caso di riprendere e ripetere tutti i protagonisti, che sono veramente tanti. Quindi ho preferito fare alcune riflessioni insieme al direttore artistico di Teatro Arena del Sole Ert. Sentiamo allora le sue parole a tale proposito. Sì, diciamo il concetto base è quello della qualità. La qualità è la varietà, cioè, secondo me il pubblico deve poter vedere una forma ampia di spettacolo, non deve fossilizzarsi in un solo tipo, no? E anche senza pregiudizi, quindi ci sono artisti famosissimi come Silvio Orlando, per dire, accanto a gruppi molto sperimentali che però hanno l'onore anche di avere la sala grande. Gli anni scorsi ci hanno confermato questa tendenza, per cui diciamo anche artisti che magari per l'opinione pubblica non sono così famosi fanno dei teatri molto interessanti, diciamo. Abbiamo fatto 2 esauriti l'anno scorso con i Motus, ad esempio, quindi confermiamo questa tendenza, alterniamo appunto, ma sempre con questa idea di apertura, cioè tutti gli spettacoli che noi facciamo qui lasciano sempre una porta aperta al pubblico, non si chiudono, non sono autoriflessivi. E poi c'è questa grande iniziativa che si chiama Opening, che è all'inizio dell'anno, per cui mostriamo il meglio della qualità italiana contemporanea. Apre questo opening Alessandro Serra, che ha appena debuttato a Budapest con un lavoro sulla tragedia antica reinventato attraverso il grecanico, e questo dialetto della Magna Grecia ancora parlato oggi. Un dato interessante: tra i 20 e i 35 anni c'è un ritorno importante. A tale proposito, cosa ci può dire? Sì, no, è un dato rilevante di cui quasi ci vergogniamo, perché stiamo doppiando tutti i teatri italiani. È un lavoro importante perché quella fascia d'età 20-35 è la fascia più critica, no? È quella che perde, diciamo, perde interesse per tutto l'intrattenimento culturale, no? Riversandosi in altre zone, diciamo, come ben sappiamo qui a Bologna. Abbiamo il 23% di pubblico di quell'età, che consente anche un grande ricambio. Non sto parlando delle scuole, le scuole sono un settore a parte, che tra l'altro da noi va benissimo, diciamo, durante la stagione, ma esclusivamente di quella fascia d'età. E per me è un grande vanto, credo che sia quello che, insomma, un teatro nazionale deve fare, no? Favorire un grande ricambio generazionale. Non accetto la risposta basta guardare il programma, ma se tra tutte queste linee ci si volesse, appunto a proposito di questa età, orientare in tutto ciò, emotivamente quale consiglio? Oh beh, io creo veramente le stagioni come se fosse un vecchio cinema d'essè. Io ero un frequentatore abituale del cinema d'essè, quindi la gente, le persone deve guardare fuori e fidarsi, diciamo, anche se non conosce quello che vede. Quindi non consiglio niente, consiglio tutto, sono tutti figli belli e vivaci. Grazie direttore, buona stagione. We'll be right back. grazie a Walter Malosti. Dopo avremo modo di sentire anche Michela Lucenti. Poi Sergio, se ci sei, resta in ascolto, perché anch'io ho dato una performance dal vivo e durante la conferenza stampa di balletto, molto interessante tra l'altro. Hanno detto che prenderanno ispirazione da quello che è capitato, quindi mi raccomando, non perdete anche la seconda parte, che inizierà con la presentazione, co-presentazione, dopo Walter Malosti, anche Michela Lucenti di Balletto Civile, in prima assoluta per l'Opening Showcase, sarà dal 15-20 ottobre 2024 con Eclissi. Sarà Archivio Z, La Montagna Incantata, capolavoro assoluto, quello che appunto ho voluto sottolineare, già vi ho riportato anche in diretta in scena Fanny Alexander, Teatrino Giullare, Pietro Babina, l'impegno per quanto riguarda lo sguardo trasversale per il palcoscenico e non solo, dentro e fuori, e poi Silvio Orlando, Andrea De Rosa, insomma Rezza Mastrella, che presenti per quanto riguarda il teatro Arena del Sole e non solo, un programma che in anticipo ha dato motivo di grande interesse, grande cultura, e viva il teatro. Insomma, alle 8:20 minuti adesso partiamo con i magazine, prima un po' di musica, giusto il tempo di mettere assieme due titoli che riguardano il lavoro e lo studio rispettivamente, da Corriere della Sera con la lettura e Alias, edizione del sabato, dal Manifesto. A tra poco. Life can be an endless search of sorrow. Fill your dream with better things tomorrow. Peace and love. Sunlight from above. Children, always have respect for your elders. Seek the treasure passed down from ancestors. It's there for you. All you gotta do is dance your dance. Create with life one chance. Now and then, a helping hand from a friend and kin. Children, bringing joys to millions with your laughter. Let the whole world know just what you're after. Peace and love. Sunlight from above. Yeah. Little Children da Billy Parker. Allora prendiamo questo Visual Data, che è incomprensibile, per cui non vi spiego, anche perché non l'ho capito neppure io, come si legge il Visual Data della lettura del Corriere della Sera, però la tematica è molto importante. Il livello di soddisfazione lavorativa, attenzione, società Max Weber notò che la gratificazione differita è un pilastro del capitalismo, è un ricatto del capitalismo la soddisfazione differita, a mio parere personale. Cos'è la soddisfazione differita? Cioè, io continuo a desiderare, per cui a sacrificarmi. Questo poteva valere qualche decennio fa, quando progetti futuri erano ben diversi. Ora la soddisfazione differita è irraggiungibile, anche perché sine die, come afferma l'articolo di Carlo Bordoni, a volte condivisibile, a volte no, arriva a portare l'individuo pur sempre ad avere un desiderio represso. Se lo rimandi al giorno del poi e l'anno del mai, resta però il presente, dove sei sotto strozzo, e questo è un potere d'ufficio che il il capitalismo si prende. Esiste ancora la soddisfazione nel lavoro? Dipende. Viviamo in tempi frenetici, ansiogeni, che non lasciano godere dei propri risultati. Quando il lavoro non gratifica, le ragioni vanno ricercate nella remunerazione inadeguata o nel poco tempo libero, ma anche nell'assenza di piacere. Poi vi sono i motivi di stimolo, che appunto, come ho detto, è quello del progetto futuro. Io faccio questo per la soddisfazione indifferita, che non esiste più, perché nella vita che viene conducendo, che si è indotti a portare avanti, tutto ciò diventa un andare avanti ad oltranza, senza avere poi forse, ma chissà. Da quello che vediamo per quanto riguarda anche i grandi istituti di credito, con quello che restituiscono a livello di piccoli risparmiatori, con quello che viene portato in uno stop totale di adeguamento dei salari, aggiungiamo la precarietà, aggiungiamo anche quello che è motivo di pericolo sul lavoro, non me lo sto inventando, lo vediamo tutti i giorni, quindi le difficoltà sono tante, le modalità sono cambiate, tuttavia l'avvento del consumismo ha fatto fallire tutti i propositi. Rinviare poi significa frenare i consumi e rallentare la circolazione della massa monetaria. Quindi la gratificazione deve essere immediata. Alcuni ragionano in questo modo, alcuni lasciano addirittura il lavoro perché non ha senso portare avanti tutto ciò a meno che non sei sotto strozzo, come ho detto, il famoso ricatto che il liberismo e il capitale porta nel mondo lavorativo. Il livello di soddisfazione lavorativa a questo punto diventa veramente ima, veramente bassa ed risultato inutile nel dare continuità a un progetto futuro. Elvis Aldata, a pagina 19 del Corriere della Sera. Allora, I Got George Levin, Can't Hold Back, è il disco, si torna e a questo punto, dopo aver parlato di lavoro, parliamo di come forma la scuola e lo faremo da Alias, edizione del sabato del Manifesto, e poi pubblicità. Di soddisfazione differita nel dire metto via perché così potrò dar modo ai miei figli di studiare, nobilissimo motivo, da come stanno andando le cose, sempre più un progetto di difficoltà, purtroppo, e non solo per le modalità di istruzione di cui parleremo tra poco, e non solo perché per quanto riguarda quello che è indispensabile per l'essere umano è il tempo libero. Il tempo libero, e questo non mi stancherò mai, se no, come disse Mélenchon in un famoso discorso, dobbiamo avere tempo per scrivere poesie, per ascoltare musica, per andare a teatro, per fare conversazione tra di noi. A proposito di conversazione, una figura molto importante che non conoscevo, a cui il manifesto dedica la prima pagina in circostanza appunto dei 100 anni di Danilo Dolci. Conoscete Danilo Dolci? Io non lo conoscevo. La testimonianza, il regista Paolo Benvenuti racconta la sua esperienza in Sicilia. Beh, lui è un sostenitore di una modalità di insegnamento molto importante, il potente strumento della maieutica. Tra i muri della scuola in cui manchi l'educatore autentico si trasmettono sì dati, tecniche, ma la conoscenza è un processo che ognuno deve ricrearsi. Cos'è la maieutica? Si va ai tempi di Socrate, qui una maieutica strutturata come ha portato Danilo Dolci. La maieutica è la capacità dell'insegnante nel portare chi sta ascoltando dentro di sé a manifestare, a trovare i motivi di crescita nell'insegnamento. Cioè, oltre che una condivisione e una comunicazione ben diversa, è una trasmissione. Tra queste due parole c'è, ok, similitudine, ma anche differenza. È il riuscire a ricercare, fare in modo che chi sta ascoltando abbia poi, attraverso la conversazione, lo scambio di idee, il percorso per crescere avviene sì portando motivo di discussione, portando anche delle nozioni, ci mancherebbe, anzi sono fondamentali, ma deve essere un motivo ulteriore, appunto la maieutica, quello di portare chi sta ascoltando, chi sta imparando, a trovare dentro di sé il motivo di percorso e di sviluppo nell'insegnamento che le viene portato. Non so se sono stato chiaro, probabilmente no, però è bella questa intervista immaginaria che Barbara Sorge riporta come potente strumento della maieutica. Quali sono le differenze tra trasmettere e comunicare? Mentre il trasmettere può essere violento o non violento, inquinante o no, il comunicare essenzialmente è sincero e non violento, pure quando è conflittuale, mentre esiste un trasmettere che tende al comunicare, ad esempio la domanda, la proposta d'amore, un rapporto esclusivamente e continuativamente unidirezionale tra una persona e un'altra, tra una persona ed altre. Nel tempo risulta di fatto violento, una malattia ci intossica e impedisce la vita del mondo che è affetta dal virus del dominio, pericolosamente soffre di rapporti sbagliati. Ci parla di dominio e di potere anche in questo caso, due diverse realtà che sembrano di sinonimi ma che in realtà non lo sono per niente. Che cos'è il rapporto strutturale maieutico? La scienza, arte di interpretare e favorire dal profondo il crescere, è il processo strutturale maieutico. In verità, centinaia e centinaia di seminari nelle più diverse parti del mondo per decine di anni hanno collaudato come ognuno nel gruppo elementare arriva a crescere identificandosi. La struttura maieutica reciproca, appunto, riesce a far crescere le qualità concilianti, diversità, unità, cooperare, non violento. Non possiamo creare un nuovo mondo senza educarci nel comunicare, un comunicare che aiuta l'individuo a trovare dentro se stesso appunto la voglia, la curiosità, lo stimolo per riuscire a conoscere ulteriormente quello che può essere in un aspetto culturale, in un aspetto sociale, anche in un aspetto politico. Per cui grande Danilo Dolci che ha portato avanti questi motivi di insegnamento. ha affascinato molto anche l'approfondimento che ha fatto sulla terminologia, sulla parola, tra potere e dominio, e sul trasmettere e comunicare. Aprirà invece il Sole 24 Ore con la domenica, che prenderemo subito di ritorno dalla pubblicità, con un approfondimento che riguarda sempre l'aspetto linguistico, ma lo sentiremo a breve. Intanto abbiamo Moby che ci sta accompagnando allo stacco pubblicitario e si rientra nuovamente con i magazine. Prima però, come ho detto, la seconda parte di presentazione per ERT, Emilia Romagna Teatri, Arena del Sole, con Michela Lucenti. A tra poco. Prima pagina della domenica del Sole 24 Ore, per collegarmi appunto prima di riprendere la presentazione con Michela Lucenti, dopo aver ascoltato la voce di Walter Malosti per ERT, Emilia Romagna Teatri, Arena del Sole, come potenziare l'italiano in genere, è la prima pagina della domenica, il dibattito sull'uso dei femminili professionali, sul superamento della visione binaria e la spia di un cambiamento che riflette mutamenti sociali, perché va studiato, analizzato e preso sul serio. Questo in prima pagina sulla domenica del Sole 24 Ore. Allora, a proposito, se vogliamo, anche di linguaggi, e la danza ne è assolutamente un motivo di espressione intenso e che trasmette e comunica anche molto dal punto di vista dell'emozione, non solo per l'estetica e per l'inclusione. Ne abbiamo parlato con Michela Lucenti. Per raggiungere Michela Lucenti dovete sapere che con un passo di danza ho ripreso pienamente l'equilibrio dopo, nel foyer del teatro, rientrando dal chiostro, praticamente un capitombolo mio, potete immaginare, 2,5 metri di essere umano che pam, cade per terra. Ringrazio chi ha partecipato alla conferenza stampa, perché nessuno, hanno fatto finta così, ma era impossibile non notare questa mia performance involontaria. Fortunatamente una piccola sbucciatura al ginocchio, però insomma ringrazio chi ha fatto finta di niente, forse con un leggero imbarazzo. Al massimo mi sono venuti incontro: ehi William, tutto bene? Dico, beh certo, mi sono rialzato con un passo di danza molto agile, dicendo: non avete capito che tutto ciò fa parte della presentazione per quanto riguarda l'aspetto di danza all'interno della stagione 2024-2025. Sentiamo, bando a queste facezie, a programmazioni serie e piene di talento portate da Michela Lucenti. Nuova stagione con Michela Lucenti, uno speciale sulla danza, tra l'altro ricevuto importanti riconoscimenti, ma un appunto, la danza sì, in un momento di transizione, perché sì. Michela? Allora, è un momento difficile, diciamo così, si guarda alla danza non come un fatto di rivolta, non come un fatto di affermazione, ma si guarda la danza solo come tradizione. La tradizione è fondamentale, lo sappiamo tutti, cioè la danza si poggia sulla tradizione, ma è importante anche solo ripensare a come è nata la danza contemporanea, cioè con un'idea di urlo, no? Proprio di sconquassare, di provare a interagire con le istituzioni, cioè la Chiesa, lo Stato, ok. Quindi è importante che la danza e il corpo continui a essere una possibilità, non l'unica, di dialogo tra la tradizione e il futuro. Quindi in un teatro come questo, che è un teatro comunque pubblico, è importante che noi forniamo la possibilità anche per un nuovo pubblico di vedere i grandi spettacoli internazionali, i grandi nomi, i grandi balletti, ma anche i giovanissimi e diciamo le persone che si stanno occupando dei refusi, del laterale della danza. Se non lo fa un teatro pubblico, non lo fa più nessuno. Tra l'altro c'è una grande attenzione appunto anche fragilità, diverse abilità e quant'altro. Questo è un grande merito e anche una, diciamo, sfida, no? Non solo è una sfida, ma è un dovere, cioè nel senso che credo che quello che, diciamo, dobbiamo invertire qualcosa, dobbiamo pensare come un rito collettivo vecchio che la fragilità è al centro, che lì c'è qualcosa che noi, diciamo, normodotati o normali non vediamo. Allora, in merito anche alla mia performance di caduta, io sono... ti seguo con le tue rassegne e magari durante la stagione ci sentiremo per tutti i motivi di incontro. Intanto io ti ringrazio per la disponibilità e ti auguro una buona giornata. Grazie a te, veramente grazie ancora. Ciao. Esattamente, Sergio, sì, mi sono cimentato nei refusi del laterale aspetto della danza, esattamente, bravo, bella recensione. Andiamo con il sacro. Simone Weil, che oggi è appunto un personaggio da portare con attenzione, da leggere, da seguire, il suo aspetto spirituale, questo lavoro che ho messo in palio e a disposizione e consiglio, un saggio per Adelphi, Attesa di Dio. Simone Weil si confronta con il Cristo, la scrittrice propone il tema dell'attesa, attenzione che prelude alla grazia di vedere, capire e possedere. Pagina 10 della Domenica del Sole 24 Ore. E poi un articolo di Giulio Busi. Come sapete, seguo con molta attenzione l'intellettuale Giulio Busi. L'ebreo errante non è neppure ebreo. Infatti, alla fine, poi questo mito che è stato portato per mettere in cattiva luce, no? Il volume miscellaneo curato da Franceschini e Grazzini finalmente fa luce su uno dei miti più pericolosi e ambigui della storia europea, con alcune sorprese, a partire dal fatto che nelle antiche attestazioni gli ebrei in questo caso non c'entrano. Allora, l'ebreo errante è stato poi portato a essere errante, questa figura che neppure era ebreo, era un portinaio, sì, portiere, dai, ma non nel senso calcistico. Era questa figura che appena Gesù Cristo passa al palazzo per arrivare appunto di fronte alla corte, da dietro lo spinge, gli dà una spinta e dice: dai, muoviti, vai avanti. E Cristo si volta, fa: sì sì, io vado, non ti preoccupare, il problema è che tu resterai finché lo voglio io. E infatti da lì ci sarà questo destino per questa figura, che non era ebreo tra l'altro, a girovagare eternamente, così almeno si dice dalla parte di scrittura e di analisi. Poi c'è un altro approfondimento molto particolare, no? Per quanto riguarda il Vangelo secondo Giovanni, che insomma ha motivo anche di portare una leggera ironia, questa abitudine a travalicare vita e morte da cui deriva il guizzo di ironia con cui Gesù nel Vangelo di Giovanni si prende in gioco delle paure e delle invidie di Pietro. L'episodio stupefacente giunge alla fine del racconto evangelico. Pietro si gira e scorge qualcuno intento a seguirli. È il discepolo che Gesù amava. e quindi Pietro, potete immaginare nel vedere Giovanni alle loro spalle, quello che durante la cena aveva appoggiato il capo sul suo petto dicendo: Signore, chi è mai colui che ti tradisce? Gesù però ha appena in quel momento predetto a Pietro la morte per martirio. Certo, una fine gloriosa, ma sappiamo che Pietro non è mai stato un cuor di leone, non è mai stato così un cuor di leone. Lui martire e l'altro misterioso discepolo in vita. Pietro ha uno scatto di umana e comprensibile ansia. Vedendolo, Pietro dice a Gesù: Signore, quello che ci sta seguendo è lui? Io sì, ok, sarò martire. E Pietro, insomma, ha questo motivo di guardare all'altro, no? E Gesù: se io voglio che lui rimanga finché io venga, che ti importa? Tu piuttosto seguimi. Ecco. Beh, un bel insegnamento, grande in questo caso la risposta, molto pronta, e dire: cosa ti interessa a te? Te pensa a fare quello che devi fare, cosa ti interessa degli altri? Terminati i magazine, sono le 8:49 minuti, a breve l'edipo enciclopedico, poi avremo Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e intanto io vi do appuntamento a domani con il Moved Groove dell'imprevedibile martedì di Radio Città Fujiko. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio gli ospiti durante la conferenza stampa di ERT Teatro Arena del Sole, direttore artistico Walter Malosti, e per balletto civile Michela Lucenti. Seguiremo ovviamente tutto il percorso 2024-2025, questa è stata una breve anticipazione. Vi auguro un buon mese di luglio, vi auguro un buon ascolto, grazie per aver fatto colazione con il Breakfast Club. A domani, puntuali alle ore 7, e dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a presto.